potrebbe carina e potrebbe combinarsi dopo se quelle moglie ci vorrebbe tante cose ci vorrebbe tante cose ci vorrebbe tante cose una benedetta sposa le potute combinare le potute combinare le potute combinare vuoi bellezza vuoi ricchezza grazie amore ti consola trovi tutto in questa sola trovi tutto in questa sola è una donna singolar è una donna singolar vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore ti consola, trovi tutto in questa sola trovi tutto in questa sola è una donna, è una donna, è una donna singolar è una donna singolar è una donna singolar E tutto a lei, e tutto a lei. Per esempio, io vorrei i due negli occhi. Son due stelle, son due stelle. Chione. Nere. Guance. Belle. Chione. Nere. Volto. Bello. E d'ogni parte io cominciamo un po'. Che da dire che la fare. Caro amico non ci scappo un po'. Se la vede le cascate, se fatemi comporre, non dico non ci scappo, non la niente da fare. Se la vede le cascate, le cascate, le cascate, le cascate, le cascate. Ami, perdoni, donna, quale brano male. Respiriamo. Amore, leva il vento, mante l'ano e comi. Se vi piace, se vi stia, per un figlio che la resta, se vi piace, se resta, per un figlio che la resta, una moglie come questa, una moglie come questa. Ci credi a me, ti piacerà. Credi a me, ci credi a me, ti piacerà. Vieni, andiamo. Apri gli occhi, sono stelle. Schietta e cora. E tutto a lei. Fiume. Nere. Guance. Belle. Fiume. Nere. Guance. Belle. Ami, se ti piaccio, se ti sto. Come faccio una moglie come questa, ma non mi piacerà. Vedi a me, ti piacerà. Vedi a me, ti piacerà. misericordia, aiuto, compassione, io sono... Taci, poltrone, uno schiavo di più. Ah, son perduto. Caro Taddeo. Misericordia, aiuto. Non mi conosci più. Ah, sì, ma... Dimmi, chi è costei? Che ho da dire? Sono sua nipote. Sì, nipote, per questo io devo star con lei. Di qual paese? Di Livorno, Ampedue. Dunque, italiani, e si intende? E me ne vanno. Evviva, amici, evviva! E perché mai tanta allegria? Ah, non so dal piacere dove io mi sia. Prescelta da Mustafa sarete, se io non sbaglio, la stella e lo splendor del suo serraglio. Ah, Isabella, siamo giunti a mal partito. Perché? Non hai sentito quella brutta parola? E qual? Serraglio. Ebbe. Dunque, bersaglio, tu sarai d'un bei, d'un Mustafa. Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo attestare. La prendi così. Che ci ho da fare? Oh, povero Taddeo. Ma di me non ti fidi. Preso mai forse, anima mia, per un pompeo, di quel tuo Cicisveo, di quel lindoro, io non ho visto mai il masso tutto. La mai prima di te, non nego, ha molti mesi che l'Italia è partito, ed ora... Ed ora se ne gira la signora a cercare in Gallizia. E tu? E io, col nome di compagno, glielo dovevo condurre. E adesso? E adesso, con un nome secondo, poi non serraglio a far, lo pensi il mondo. Ai capricci della sorte, io so fare, io so far differente. Ai capricci della sorte, io so fare, io so far differente. Mangiose per niente, io so stanca di soffrire, sì, sono stanca, sono stanca, sono stanca di soffrire, sì, sono stanca, sono stanca, sono stanca di soffrire, sì, di soffrire, sì, di soffrire. Thank you. Ignoto sabe

Di me stesso, per me soltanto dipendono, non so comprendere dal gesto. Oddio che pulire, non so rispondere, ma mai al giorno di più rispondi. E stupidi, incerti dipendono, non so comprendere dal gesto. Thank you. sposarla o tempo e sol mi imbussi per desio d'abbracciarti.